música brutal, encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Una delle più controverse dispute della contemporaneità è sul fatto se il punto G esista o meno. Il pubblico delle donne e il pubblico degli uomini è diviso in questo amletico problema. Le donne hanno il punto G o soltanto un'invenzione, soltanto una bufala? Beh, c'è uno scienziato che è riuscito finalmente a definire e a dimostrare l'esistenza di questo luogo misterioso in cui la donna scopre di essere più donna e facendo anche discreto piacere anche all'uomo. Sto guardando con preoccupazione, come qualsiasi persona nel mondo conosciuto, le foto dei giornali con tutte queste persone con una mascherina azzurra di fronte al viso. L'emergenza febbre suina, di cui state ascoltando le notizie, gli aggiornamenti anche dai nostri giornali, pone dei problemi di ordine pubblico, dei problemi sanitari, dei problemi emotivi da contenere e da elaborare. Ma io vorrei questa mattina rovesciare questo clima che pesa un po' su tutti noi, assieme a un'infinità di altri problemi che ognuno di voi si porterà come fardello doloroso sulle proprie spalle, ricordandovi che in una situazione analoga, ma in tempi diversi, in situazioni totalmente diverse, in un mondo in cui il mondo era commisurato rispetto alla possibilità di attraversarlo a piedi o al massimo a cavallo, Giovanni Boccaccio, in occasione di una pestilenza terrificante, quella di Firenze del 1348, si immaginò che come reazione rispetto a questa terribile immagine di morte, un piccolo gruppetto di ragazzi, uomini e donne, decisero di allontanarsi da Firenze contaminata. Erano 3 ragazzi e 7 fanciulle, tutti di buona famiglia, quindi di livello culturale elevato, quindi si immagina anche di facilità di gestire le proprie relazioni in maniera non vincolata da pregiudizi. Insomma, erano ragazzi liberi ed illuminati che se ne andarono in una casetta lontana dalla pestilenza per passare del periodo assieme, aspettando che passasse questo momento terribile. E come passavano il tempo? Ballando, giocando, intrattenendosi, soprattutto la sera, uno a turno, si raccontavano delle novelle, delle facezie. E guardate caso, il Decameron passa alla storia della letteratura mondiale proprio per la licenziosità di queste novelle. Novelle in cui l'esercizio gioioso e piacevole della carne, dei rapporti carnali, della sessualità, delle possibilità anche eterodosse di incontrarsi, di accoppiarsi, frati, suore, monache, guardiani del convento, prelati, donne fedifreghe, adulteri e viziosi. Insomma, era una grande esplosione di carnalità intesa come reazione alla morte, come reazione alla disperazione, come reazione all'inspiegabile mano nera della pestilenza che metteva vittime. Ora, questa mattina non vuole la mia essere un'istigazione a fare la stessa cosa, ma vorrei approfittare proprio di questo senso di disagio comune per parlare di un argomento che non ho mai affrontato prima in maniera così estesa, così chiara, così diretta, che è quello del sesso. Questa mattina parliamo di sesso. Spesso vengo accusato, e questo è un luogo comune che mi perseguita abbastanza, ma probabilmente avrò anch'io fatto qualcosa perché ciò accadesse, di avere una particolare compiaciuta insistenza nel trattare gli argomenti sessuali nei miei programmi, anche quando non c'entra nulla. Lo vedo questa mattina, avevo messo l'annuncio su Facebook proponendo ai miei amici online, che questa mattina avrei fatto come Boccaccio, avrei cercato di coinvolgere le persone che mi ascoltano in racconti che riguardassero la piacevolezza della loro carne, a contrasto del terrore per la loro carne corrotta che viene dalle notizie per la peste suina, che subito il Fulvio, uno degli ascoltatori, ironizzando, dice: ah, che strano, non si parla mai di sesso nella tua trasmissione, come io se stessi tutto il giorno a parlare di questo. Beh, questa mattina ne parlo apertamente, liberamente, anzi vi do possibilità di dire tutto quello che pensate anche sul parlarne, anche sul farlo. Per avere l'inizio, un punto concreto di abbrivio, vi ricordo che in una trasmissione che feci non molto tempo fa proprio sulla mascolinità, sull'aggressività maschile, sulla possibilità di avere rapporti non vincolati da sentimento, ma proprio per la pura e concreta piacevolezza della curiosità che provoca lo scambio carnale, ebbi un piccolo battibecco con un'ascoltatrice che non la pensava esattamente come me. Non ho più illusioni sui maschi e purtroppo... Non è che io non so odiare, comunque così, o sono indifferente oppure li trovo molto molto ridicoli e molto stupidi. Ormai, cioè, io ho una bella età, no? Ho detto 66 anni, comunque trovo che siano, che siate molto troppo condizionati dai vostri ormoni. Cioè, io il sesso lo trovo, non lo trovo, vabbè, non dico... Questo è il suo problema, però, signora, il resto del mondo, grazie a Dio, ancora trae qualche soddisfazione, soprattutto in momenti di crisi come questa, rimane una delle occasioni di passare piacevolmente il tempo. Non deve parlare così, perché allora andiamo indietro di 80-90 anni dopo la Prima Guerra Mondiale e vediamo, non so, famiglie con 9, 10, 15 figli. Ma no, quella era procreazione, non era sesso. Noi stiamo parlando di piacevole attività relazionale, che non è una cosa detestabile. No, vabbè, adesso lei sta scherzando. Come no, no, sono serissimo, signora, sono serissimo. Alle sue battute, comunque... ma perché, mi dispiace che arriviamo proprio in coda a parlare di questo argomento che mi sta a cuore. Il sesso è una meravigliosa facoltà che ha l'essere umano, usata normalmente per riprodurre la propria specie, ma il fatto che noi attribuiamo... Naturalmente, a questa telefonata in cui... mi lascia andare una certa reattività, lo faccio raramente, ma mi dispiaceva vedere conclamato un luogo comune da cui mi sento veramente perseguitato, che è quello di avere particolare desiderio di parlare di cose zozze, come se fossi uno di quei chiacchieroni di porcheriole che tanto hanno turbato le nostre fanciullesche esistenze. Non si tratta di questo, si tratta semplicemente di un punto di vista, secondo me, sereno, non privo di problematicità, di implicazioni di ogni tipo, di fronte a una visione che vorrebbe che di certe cose o di certe attività se ne parli soltanto in maniera distaccata dal trasporto emotivo. Io invece trovo che la carnalità, la curiosità, la capacità di conoscersi attraverso i sensi sia una delle più formidabili maniere per vivere intensamente la propria esistenza. Ma su questo vi chiamerò questa mattina a dare anche il vostro parere. 800 24 00 24, e intanto comincio a farvi ascoltare quelle che furono le reazioni sulla nostra segreteria telefonica a quella telefonata. Cosa c'è di più bello del sesso? Da sempre, quindi sesso sano, fatto bene, è una cosa meravigliosa. Io ho più di 50 anni, non dico la verità, ma ancora oggi, non so, io spero di provare così fino a 100. E il mio papà è morto all'età di 81, la sera prima ha fatto sesso. Non c'è nulla più gratificante del rapporto sessuale, fatto consapevolmente e reciprocamente. Naturalmente ci fu immediatamente la reazione degli affezionati, dei praticanti, degli entusiasti, degli praticamente istruiti ad ogni segreto dell'attività fisica. Una reazione che mette in relazione, in contrasto, come se fossero due punti di vista antitetici e incompatibili, l'aspetto ginnico, l'aspetto cronometrico, l'aspetto dei tempi, delle misure, delle soddisfazioni, con l'aspetto della epidermica e fastidiosa sensazione che siano cose che meno si fa e meglio è, meno se ne parla e meglio è, e che soprattutto appartengono a una certa categoria dell'umanità che ha una predilezione quasi morbosa, quasi patologica per il contatto fisico, quando in realtà la normalità, la giusta regola sta nel farne un uso appropriato, dedicato e soprattutto molto discreto. Il sesso è una cosa molto bella, è molto importante, molto di più dei soldi. Ma si può che siamo ancora fermi a una concezione così veterotestamentaria del rapporto fra uomo e donna, fra l'uomo tutto sesso, la donna invece poverina, cerebrale, che deve soffrire? Ma io non ci posso credere. Io sono oltre 20 anni che non faccio sesso, non per mia scelta o non perché non c'è stata l'occasione. Poi ho avuto un'educazione rigida dalle suore, quindi matrimonio dopo 4 anni, lui per disperazione andò buttato via, se ne andò anche se sei ancora innamorato. Sono molto chiuso su queste cose, però io quando sto in casa mia, capita un paio di volte al mese, faccio da sola e si fa meglio e si fa bene, anche se poi ho un po' di mal di testa. Pazienza, passerà. Naturalmente ogni ascoltatore aveva le sue forme di risoluzione del problema, per alcuni come quest'ultima signora è quasi una sorta di appesantimento fisico da cui bisogna liberarsi e scaricarsi, come se fosse il mal di testa, come se fosse una qualsiasi patologia, qualcosa che fa parte di un fardello che ci impone la natura, di cui dobbiamo liberarci. Eppure esistono concezioni molto poetiche che affondano le radici in un rapporto diverso che l'uomo aveva con la natura, con se stesso, con il proprio corpo, forse più svincolato e più liberato da quelli che sono obblighi sociali, obblighi familiari, obblighi relazionali. Ci sono dei racconti bellissimi di antiche saghe portoghesi, ma che sono anche legate a tutte le popolazioni di mare, in cui le donne, le mogli dei pescatori, quando si affacciavano al baratro di fronte al mare, vedevano il mare in tempesta e temevano che questa tempesta potesse nuocere ai loro uomini che erano fuori per pescare, alzavano le gonne, e naturalmente a quei tempi la biancheria non si usava, e mostravano il loro sesso alla tempesta, e pare che la tempesta si placasse. Aveva la forza terrificante di placare le tempeste, l'immagine di un'esposizione di un sesso femminile. Ci sono molte incisioni in cui ci sono donne che spaventano il diavolo proprio tirandosi sulla gonna, assolutamente il contrario di quello che è un luogo comune, in cui nella ostentazione delle parti genitali ci sarebbe un principio diabolico. No, la donna che mostra al diavolo la naturalità della propria apparato fisico e sessuale lo mette in fuga, perché lui lì non saprebbe dove mettere le mani, non saprebbe dove porre la sua tentazione, che è fatta di morbosità, è fatta di senso del peccato, di senso di colpa, di totale innaturalità. Ma io questa mattina, visto che sto istigandovi a chiamare, a dire la vostra, telefonando all'800240024, mi rendo conto che è molto difficile fare una propria personale esposizione, raccontare quello che si sente nei confronti di questi piccoli accenni che sto facendo. Il rapporto fra disperazione, il rapporto fra un clima oppressivo che ci circonda, il senso di morte, il senso di pestilenza, il senso di oppressione e la meraviglia della possibilità di incontrare altre persone attraverso un incontro fisico. Beh, ho al telefono l'ascoltatrice che quella mattina portò fuori della pacata correttezza di avere un conduttore radiofonico, e me ne scuso già in partenza. Stefania, buongiorno. Noi ci siamo un po' accapigliati una mattina di qualche tempo fa su un problema che a lei aveva molto colpito e aveva molto fatto star male, che era una mia affermazione troppo disinvolta sul fatto che la sessualità fosse una attività che coinvolgeva ugualmente, equamente, sia uomini che donne. O mi sbaglio? Sì, no, lei sì, aveva detto questo in pratica, però voglio dire, dal punto di vista del maschio non può dare delle asserzioni come fossero dei dogma in questo modo. Voglio dire, io riconosco che ho avuto dei problemi, diciamo, è come diceva quella signora, anche lei diceva era stata educata dalle suore, quindi il sesso era tabù e tutto questo, insomma, e quindi c'era anche questa faccenda, questo, non so, il fatto di non partecipare significava non commettere peccato in pratica. Non so se riesco, se qualcuno... Cioè, no, io sono qui accanto a lei. Allora, penso di essere folle. Figuriamoci, tutti siamo folli e parlando di questo tutti perdiamo il senso della ragione. Ma forse questo è l'aspetto meraviglioso per cui ci spaventa, ma allo stesso tempo ci attira la sessualità. Sì, cioè, perché allora, ci fa uscire di noi stessi. Legato, diventiamo tutti folli, grazie sì, a Dio. Allora, legato proprio a peccato e morte. Questo ti viene insegnato da quando hai 2 anni, diciamo, ecco, fino poi magari la cosa si provvista l'ha vista la mia età dell'immediato dopoguerra, eccetera, e va avanti tanto. Adesso non accenni sempre su questa età avanzata, che siamo sì, quasi coetanei. Perché... Comunque, malgrado ciò, voglio dire, io mi sono sposata giovanissima e ho avuto appunto così un rapporto prematrimoniale intorno, frequentavo ancora le magistrali, quindi intorno al terzo magistrale, così erano 17-18, sì, prima di 18 anni, insomma, Dopodiché mi vergogno, mi sono sempre vergognata per tutta la vita perché sembravo una satanata di sesso, quando invece io l'avevo fatto col mio fidanzatino per far piacere a lui. E con questi tabù nella mente che se partecipavo, facevo peccato o morivo. Poi, non lo so, mi sono anche sposata, ho avuto due figli, insomma queste cose. Ma ciononostante nel rapporto, nel lungo rapporto poi successivo, diciamo che, vabbè, io certamente non ho soddisfatto il marito, voglio dire. E poi, non so, questa posizione, queste cose strane, l'essere nudi come due vermi, il fatto di... Non so, pensavo al lampadario che dovevo ripulire, il rumore della lavatrice, queste cose qui, cioè, e poi trovavo così ridicolo che più volte, purtroppo, ridevo, insomma. Cioè, non le dava gusto per niente. Infatti, questo mi rendo conto. Vabbè, però, beh. E poi, successivamente, appunto, nel corso degli anni, io ho pensato che quando due persone hanno... così, diciamo, hanno fatto il loro compito nel senso della riproduzione, ognuno ha il diritto di riprodurre se stesso, e quindi basta, cioè, che senso ha questa cosa? Solo per capire, poi non voglio fare dello psicologismo, c'è anche troppa gente che si è costruita solide e ben remunerate carriere facendo raccontare agli esseri umani i loro problemi relativi al sesso e non risolvendoli quasi mai, probabilmente, quindi non voglio entrare nello stesso iter. Ma non c'è stato mai una volta nella sua vita che per un attimo gli è venuta la curiosità di capire che forse il contatto con un altro corpo è anche qualcosa di esaltante, di bello, di piacevole, non soltanto quei corpi nudi e squallidi illuminati dalle lampadine di un lampadario da spolverare? No, non ho mai, cioè, ho sempre visto da quest'ottica, da questo punto di vista così... inutile, ridicolo, e soprattutto, cioè, il cambiamento che ha l'uomo in quei momenti è qualcosa di sconosciuto, è qualcosa che tu non avresti mai detto, cioè una persona sensata, a modo, eccetera, fino a pochi minuti prima, eccetera, così, e poi è tutto un tratto. E perché questo le fa paura? L'ho citato quella leggenda di donne del mare che tirano sulla gonna e mostrano la vagina al mare tempestoso. Pensi la forza che ha quel gesto lì, di fermare il mare in tempesta. E non trova che questa forza sia altrettanto positiva se usata per mollare un attimo gli ormeggi anche noi e buttarci in una tempesta una volta tanto, visto che navigare sempre in bonaccia potrebbe essere noioso. Noioso, basta evitare, e non ha neanche la noia di questo gesto, insomma. Va bene, resti lì da un attimo, perché è entrato adesso l'ospite che aspettavo dall'inizio, per cui stavo allungando in maniera miserrima il brodo, il professor Emanuele Iannini. Emanuele Iannini, buongiorno. Buongiorno a tutti. Siamo anche amici, ci diamo del tu. È, diciamo, in questo momento sulla cresta dell'onda, è considerato il più grosso sessuologo, non solo d'Italia, ma quasi del mondo. Ti hanno dato dei titoli di fama internazionale. Insegna all'Università dell'Aquila, quindi in questo momento insegnerai sotto una tenda, immagino, qualcosa. Sotto una tenda, facciamo esami sotto la tenda, facciamo le tesi di laurea a partire dall'inizio del prossimo mese, quindi sì, l'università sta rinascendo, si sta ricostruendo. Senti Emanuele, velocemente, poi riprendiamo dopo la pausa per notizie della borsa. Questa signora che hai sentito parlare aveva scatenato un piccolo battibecco con me qualche tempo fa, l'ho richiamata e ha esposto quello che è un problema comune. Questa mattina volevo sollecitare gli ascoltatori a reagire al senso di morte, di disperazione, di pestilenza che ci assatana guardando i giornali e sentendo le notizie, un po' alla maniera di Boccaccio ai tempi della peste di Firenze. Parliamo del nostro corpo. Tu cosa avresti a dire a questa signora che, non dal punto di vista del medico, del patologo, perché c'è Nicoletta Carbone che parla benissimo di queste cose, la tua esperienza umana? La mia esperienza è che tutto funziona tra gli esseri umani quando si capisce qual è il vero significato dell'attività sessuale per noi. Noi siamo una specie che ha, grazie a una serie di mutazioni genetiche, per così dire, sconnesso completamente riproduzione da sesso. Il risultato è che noi siamo sostanzialmente l'unico animale che è capace di accoppiarsi quando vuole, quindi il fine del sesso è esclusivamente il piacere. Diciamo che da un certo punto di vista l'aspetto riproduttivo è quasi incidentale rispetto al vero significato della sessualità umana. Ci siamo programmati per avere un coito di 30 secondi, mi pare. Assolutamente sì, però impariamo, appunto, il cosiddetto coitus citus, impariamo a essere invece, abbandonarci per così dire al piacere. Quindi questa dimensione del piacere è assolutamente centrale per la sessualità umana. In altre parole, tutte le volte che perdiamo di vista la dimensione del piacere, tradiamo per così dire lo scopo del sesso, il sesso si vendica e crea quei problemi che stiamo ascoltando da questa signora. Grazie Emanuele Iannini, grazie alla signora Stefani, continuerà ad ascoltarci. Melog 2.0. Luca, hai un minuto, ti devo parlare. Di solito quando una donna dice così è perché ti sta per lasciare. E allora di cosa ti preoccupi? Noi due non siamo mai stati insieme. Eh sì, con tutte le volte che abbiamo fatto l'amore. Sì, 10 in un anno. Luca, a letto proprio non funziona. Davvero? Ah, guarda Luca, se tu mi facessi provare anche solo tanto così di piacere, ti assicuro che me ne accorgerei. È che, come devo dirtelo? Ma a letto sei imbarazzante. Veramente sei l'unica che me lo dice, eh? Per forza, sono l'unica con cui vai. E poi guarda, non è colpa solo delle dimensioni o della durata, è che proprio tu non ti applichi. Ah, ho capito, ti devo pagare. Ma cosa c'entra? Ma allora proprio non capisci. Ti sto dicendo che perlomeno potresti cercare di informarti, di sapere di più su come dar piacere a una donna. Luca, perché non provi a parlare con qualcuno che il problema lo conosce bene? Che ne so, un dottore, una dottoressa? Ma non ne ho bisogno, mi sono sempre documentato da solo. Io compro un sacco di riviste scientifiche che parlano di sesso. Sì, ma guardi solo le figure. 800 24 00 24. Oggi parliamo di sesso. Chiudetevi le orecchie, cambiate canale radiofonico, allontanate le persone sensibili dall'apparecchio se pensate che questa mattina stiamo per compiere qualcosa di fortemente trasgressivo. Ma dov'è la trasgressione? Sentite Camera Caffè, una sitcom che va nel pomeriggio televisivo, si scherza, si lanciano facezie, la medicalizzazione del rapporto sessuale è diventata materia di intrattenimento teatrale, tutti sappiamo tutti, siamo pieni di manuali, siamo pieni di consulenti, siamo pieni di riviste specializzate, siamo delle vere enciclopedie del sesso viaggianti, eppure è ancora così difficile viverlo in maniera serena e tranquilla. La signora che poco fa ci ha raccontato una vita coniugale è passata a pensare alla polvere del lampadario che stava sopra il talamo coniugale e pensando a quello che doveva fare il giorno dopo, spaventata e atterrita, ma come un'infinità di persone, come anche noi in piccola maniera probabilmente in varie fasi della nostra esistenza, da questa possibilità di scatenamento, di uscita dalla regola, di uscita dalla norma. Ho in studio Emanuele Iannini, che è un noto sessuologo, ma da lui questa mattina non vorrei tanto il lato medico-clinico, ma le sue osservazioni da un punto di vista umano. Siamo una società che sembra che abbia già detto tutto del sesso, abbia scoperto tutto e di tutto si possa parlare. Ne parlano i miei figli, dalle scuole elementari hanno lezioni di sessuologia. Quindi non è più un tabù, ma rimane profondamente qualcosa di non detto. Ecco, qual è la parte di non detta del sesso? Quali sono le colonne d'Ercole che forse tu una volta nella tua vita te la sei sentita di superare? Io ho la sensazione che sia le colonne d'Ercole siano veramente la sessualità femminile, da un certo punto di vista. Cioè, mentre del maschio è stato messo sul tavolo anatomico, per così dire, ormai da tempo, e ne sappiamo tanto di come pensa, di come agisce, di quali muscoli, nervi e vasi utilizza quando fa sesso, per quello che riguarda la sessualità femminile, credo che hic sunt leones, che qui c'è ancora tanto da scoprire, il nuovo territorio di conquista dello scienziato è proprio questo. Prima accennavamo la dimensione del piacere, è vero che si parla tantissimo di sesso, ma è vero che si parla poco della dimensione del piacere. E se ancora c'è della gente che ha paura del piacere, perché fondamentalmente il racconto della signora, che poi è assolutamente un paradigma che si sovrappone alla vita di tanti altri, è il racconto di una persona a cui è stato insegnato che il piacere è uguale peccato, è uguale guaio, abbandonarsi, per così dire, al piacere è un errore. E questo temo che sia veramente ancora un problema per tante persone, perché è vero che i nostri ragazzi fanno sesso qualche volta anche con certi automatismi, oppure utilizzando quegli strumenti nuovi, il telefonino per filmare le loro prodezze sessuali, per poi magari... Questa è un po' l'angoscia dei genitori e degli adolescenti, la spensieratezza con cui gli adolescenti consumino rapporti sessuali, facendosi, vivendosi concretamente situazioni che per la nostra generazione, ma sì, nemmeno nei film più audaci erano immaginate. Io diciamo che faccio anche di mestiere il padre di un ragazzo, di due ragazzi, prima che fare sessuologo, tutto sommato non sono così preoccupato, devo dire una cosa un po' controcorrente. Sì, è vero che ci sono questi comportamenti che sono definiti, come dire, estremi, ma è vero anche che il vero problema è la dimensione di, per l'appunto, di piacere, cioè quanti di questi ragazzi lo percepiscono l'interazione sessuale come un linguaggio in cui viene comunicato piacere, in cui si trae piacere dal piacere dell'altro. Ecco, questa dimensione, che è un po' il vero fondamento dell'attività sessuale umana, ecco, io temo che qualche volta si perda, non ci sia, ecco, non manca questa educazione. Sentiamo i nostri ascoltatori. Maria, buongiorno. Maria? Sono io. Eccola, sì. Si è ammutolita, Maria. Capisco che l'argomento non è di più facile da trattare. Io leggo sulla sua scheda: il sesso deve essere fatto con amore, passione, ma anche con gioco. Vuole andare avanti lei? Io ho 50 anni, però io vivo ancora il sesso veramente. Nell'amore ci vuole la passione, ma ci vuole anche la fantasia, la giocosità. Addirittura quando delle volte sudiamo tutte e due come matti, no? Però ci ridiamo sopra. Addirittura facciamo delle battute tra noi, per dire, poi cambiamo posizione per farlo meglio. No, sono, ecco, contento che le viene da ridere ci soltanto al pezzo. Proprio, ci ridiamo sopra. Beh, che dovreste piangerci, scusate. Infatti, è una cosa che secondo me, ecco, deve essere anche molta fantasia e divertimento anche, ecco, oltre che senz'altro amore e passione. Cioè, quindi, se non ci si diverte, se non dà gusto, che si fa fare? Se si diverte, che gusto c'è? Esattamente. C'è una cosa che la signora, in qualche maniera in filigrana, ha detto. Lei ci ha raccontato di intimità. Cioè, in realtà, una risata che può distruggere qualsiasi atto sessuale, anche la migliore performance del mondo, può crollare di fronte a una risata. Invece, in questo caso, una risata insieme di fronte agli aspetti qualche volta anche un pochino comici di questo faticoso e di buffa posizione atto sessuale, ebbene, è in grado invece di restituire un altro elemento fondamentale della sessualità, che è appunto quello dell'intimità. Tu pensi esattamente lo stesso meccanismo che per questa signora scatena l'intimità, che è il senso di osservazione, a volte anche dell'aspetto ridicolo della nostra espressione animale, perché fa sorridere, per lei è un incentivo all'intimità, per l'altra signora era un deterrente terrificante, vedere i corpi nudi e vedere le espressioni dell'abbandono. Sono veramente si possono mettere insieme in qualche modo queste due esempi di donne, si possono raccontare molto, no? Perché veramente questo è il punto, cioè essere capaci di vivere la dimensione sessuale appunto con la dimensione di intimità e con la dimensione di accettazione del piacere e dell'abbandono è un po' la ricetta vera. Massimo, buongiorno. Buongiorno a tutti. Io appunto volevo rimarcare il fatto che è bello comunicare all'altro ciò che ci piace e l'altro deve comunicarci ciò che piace a lei, perché molte sono le sfumature del piacere, della sessualità, per cui se ne parla molto, però fra i due partner magari manca quel qualcosa che dice, ostra, l'altro dovrebbe sapere che cosa ci fa piacere o meno. Invece, cioè, no, se ne parla quando si parla di altre persone o di altre situazioni, delle proprie cose personali si fanno occhi chiusi a denti stretti, questo dovrebbe dire. Sì, molte volte succede questo, cioè non si è così sciolti nel dire sì, ma a me piace questa cosa qui, mi piacerebbe che si facesse, insomma, dopo magari si ha paura appunto del no dell'altro o altre cose. Questo signore ci sta dicendo un'altra cosa, che appunto la sta dicendo meglio di come la dicevo io prima, ed è che il sesso è anche, non è solamente piacere, ma è anche trarre piacere dal piacere dell'altro. Ora, questo che è quanto di più umano ci sia, perché tutti gli animali possono fare fuorché questo, bene, credo che sia una delle cifre più fondamentali del gioco. Sentiamo Giovanna, che ha 28 anni, quindi è giovane rispetto al target medio di questa trasmissione. Giovanna, buongiorno. Sì, buongiorno. Niente, io volevo semplicemente affermare il fatto che dal mio punto di vista le donne non abbiano quella libertà sessuale che in realtà si pensa possano avere in questo periodo storico, insomma. Ma lei parla di libertà logistica o di libertà espressiva, che sono due cose diverse? Entrambe, entrambe, perché le donne non si sentono libere, secondo me, nello sperimentarsi nell'atto sessuale, perché non si conoscono, non hanno sperimentato innanzitutto se stesse come persone, come donne, non conoscono la propria fisicità. Per quanto riguarda l'uomo, il ragazzino, l'autoerotismo è una cosa, un fatto insomma comune, molto praticato. Invece, cioè, le donne si toccano poco, vuol dire questo? Sì, cioè si leccano, si curano, si lisciano, si depilano, si liposuggono, sì. Ma in realtà non si vanno mai a vedere lì dove dovrebbero guardarsi. Esatto, ho un sacco di amiche che non hanno mai preso uno specchio, non si sono mai guardate, fra le gambe, per la curiosità di sapere come siamo fatte, e questo è un grande limite dal mio punto di vista, perché solamente conoscendo profondamente se stessi e conoscendo profondamente quanto che cosa ci dà piacere, dove come possiamo trarre piacere da noi stesse e dal nostro corpo, possiamo instaurare un legame profondo. Quindi con l'abisso l'altro. Femminile, secondo lei, fa paura non soltanto a noi maschi, ma anche le donne ogni tanto evitano di buttarci uno sguardo dentro. Beh, abbiamo il professor Iannini, che è un esperto osservatore di ciò che si cela oltre le colonne d'Ercole, appunto, dell'abisso femminile, ci dirà qualcosa di più. 800240024, questa mattina in clima di pestilenza, che speriamo si fermi soltanto ai limiti accertati in questo momento, abbiamo deciso di fare come hanno fatto i ragazzi della peste del 300 a Firenze, di parlare di sesso, di raccontare il sesso. E quello che è venuto fuori finora è che in realtà esiste una scarsa attenzione proprio a quello che è il punto cruciale dell'attività sessuale. E andando ancora più nel profondo, come ci ha detto una nostra ascoltatrice, il mistero veramente insondabile, le colonne d'Ercole, il punto che veramente ancora l'emancipazione e il grado di civilizzazione, di distacco da ogni pregiudizio della modernità non è riuscita a varcare, è la conoscenza profonda del sesso femminile. Professore Emanuele Iannini, di questo cosa ne dici? Dico che quando inizio la mia lezione agli studenti dell'Aquila sulla sessualità femminile, spiego loro che il primo strumento terapeutico per una donna che non vive bene la propria sessualità, è stato detto poc'anzi, si chiama specchio. Specchio perché la sessualità femminile, che anatomicamente la sessualità, come dica, all'interno piuttosto che non all'esterno, come quella maschile, necessita ovviamente di un cammino di esplorazione. Un cammino che ogni donna deve compiere e che quindi richiede impegno, ma che anche la scienza in qualche modo deve compiere. Perché? Perché l'ha iniziato questo cammino molto tardi. Ecco, solo velocemente, che non voglio invadere il terreno prestigioso Nicoletta Carbone, che di queste cose parla, ma tu sei colui che ha fotografato il contrastato punto G. Quando parlo di punto G, l'universo femminile è diviso in due parti. C'è chi dice che è una cavolata immensa, il punto G sta in testa, non esiste, e altri fanno l'occhiolino e danno di gomito, dicono: ammazza, ha fatto una scoperta che altro che la scoperta dell'America. In sintesi, perché è stato così difficile dire che all'interno della vagina femminile ci fosse un posto misterioso dedicato al piacere? È tutto perché è una storia complicata, perché la scienza aveva strumenti ancora poveri, ma anche perché c'è da dire, o dobbiamo dire onestamente, qualche volta le donne sono le peggiori nemiche di loro stesse, in qualche modo. Ecco, io ho assistito a delle lotte furibonde e nei congressi e nei salotti, quando si parla appunto di tema di punto G, tra donne per le quali ciascuna vuole usare se stessa come metro della sessualità dell'altra. Per cui una donna che non ha l'orgasmo vaginale, quindi non ha un orgasmo da punto G, ritiene impossibile l'esistenza di questa struttura anatomica, che è una variante anatomica. Al contrario, una donna che ce l'ha non pensa possibile che possa esistere una sessualità diversa da quella vaginale. Carla, cosa ne pensa? Sì? Carla? Pronto? Eccomi qua. Ecco, buongiorno. E io ho ascoltato, interessante molto. Buongiorno a tutti innanzitutto. Parlo un po' per esperienza, perché la donna, cioè l'inibitore principale per la donna è la non conoscenza del sesso, naturalmente. Ma questa non conoscenza potrebbe essere superata da un aiuto, naturalmente, del partner, che deve capire che la donna è in un momento molto difficile, perché è sempre stata giudicata su questo fatto. Però lei, scusi, lei classifica un'umanità che non so quanto corrisponda all'attualità, di uomini esperti in attività amatore, di donne poverine che non sanno da che parte si debba iniziare. Non mi sembra che oggi la situazione sia proprio esattamente così. Beh, io sono di un'età età oltre i 50. E anch'io sono oltre i 50, signora, non è che siamo proprio carne da macello ormai. No, a tutt'altro. Spero bene. Le donne temono sempre il giudizio maschile. Vabbè, pensi noi quanto temiamo il giudizio, signora. Voi potete anche simulare, far finta, per noi è un po' più difficile. Ecco, ma allora con questo non è sesso, cioè non è amore questo. Ah, ma chi ha detto che il sesso deve essere legato all'amore? In questo momento lo diamo come un ottimo incentivo e un ottimo corroborante, ma parliamo di pura fisicità in questo momento. La fisicità sola io non la intendo una cosa appagante. È un suo punto di vista, ma è rispettabilissimo. Sì, certo. Io non la intendo in un modo appagante. Però, ecco, se si conosce ovviamente il sesso, fare l'amore unito anche al sesso è una cosa più bella che una donna quando l'ha provata la ricerca. E quindi è una persona che fosse bravissimo, espertissimo, ma dal quale non è legata da un legame amoroso, lo accetterebbe come maestro? Mi sta facendo una domanda un po'... In cui appunto non potrei rispondere perché non mi sono mai trovata in questa situazione e credo che non mi ci troverò. Beh, non escluda mai le possibilità del caso. Sì, no, non lo escludo, ma ho detto credo non mi ci troverò. Ma perché scappa via o perché la cosa proprio a priori non le interessa? Ma perché non è il mio punto di vista. Rispettabile, ho detto rispetto al suo punto di vista. Carla, buongiorno. È lei che ha detto... Carla, no, scusi, Claudia. Ah, buongiorno, Gianluca. Claudia, Carla ha parlato. Dunque, io chiamo per raccontare la mia esperienza. Io sono una amante del sesso e soddisfattissima del sesso, vivo il sesso in maniera molto felice. Lo dice anche con troppa soddisfazione, ci fa invidia e rabbia, quindi ridimensioni questa cosa. No, ma perché, devo dire la verità, sono stata forse, diciamo, fortunata, nel senso che da quando ero adolescente mia madre mi ha insegnato il provare, nel senso, probabilmente per sue esperienze passate, mi ha sempre consigliato di provare bene le persone con cui stavo prima di sposarmi, anche di andarci a letto proprio, per provare se effettivamente riuscivo a essere felice anche da quel punto di vista. La mamma che tutti vorremmo conoscere. E infatti, perché lei mi ha sempre criticato il fatto che la sua mamma, quindi mia nonna, le ha sempre insegnato sul sesso, quando sei di fronte a un uomo devi tenere le gambe incrociate, quindi le gambe chiuse. E probabilmente... mi sembra un sistema meraviglioso per risolvere il problema. Beh, probabilmente una volta questo era quello che veniva insegnato. Quello che io volevo dire è quindi che secondo me, cioè, ci sta avvenendo anche un cambiamento culturale. E io stessa, cioè, ho 32 anni, con le mie amiche ho sempre parlato di sesso, ma di sessualità proprio a livello di dettagli. E con gli uomini ne parla? Sì, certo, anche con mio fratello, i miei amici, ne parliamo tranquillamente. Se lei sta parlando di uomini neutrali rispetto alla possibilità poi di consumare, con gli uomini con cui consuma, parla pure o si limita a un muto consumare? No, ne parliamo, se devo dire la verità, tutta questa mia inibizione, mi è venuta proprio quando ho conosciuto una persona con la quale c'è stata una fortissima attrazione sessuale e quindi abbiamo vissuto una storia di sesso molto intensa. Quindi lei ha avuto il suo maestro di vita, come succede in tutte le attività, che le ha sbloccato, diciamo, ben poco c'era da sbloccare visto la sua fortuna. Certamente, di frequentazione materna. E voglio vedere chi è che parte conoscendo, che sa già fare sesso. È una cosa che si impara, ci si conosce man mano con la pratica. E quando poi si sa tutto, però uno si guarda allo specchio. Non si smette mai di sapere. E il fisico non regge più di solito. Va bene, grazie Claudia. Buona giornata. Giovanni. Sentiamo Giovanni, poi concludiamo col professor Iannini. Giovanni. Giovanni Genova, sì, sono io. Sì, Giovanni, lei, certo. Ma guardi, mi ricollego alla chiamata di subito precedente, ma per dire l'esatto contrario. Nel senso che non si può avere un'educazione sessuale da chi in passato ha avuto dei grossi problemi, perché l'evoluzione sessuale si ha in questi ultimi... Sì, ma la mamma della signora non mi sembra abbia avuto problemi. Semplicemente a un certo punto ha rotto una tradizione familiare di gambe incrociate e da lì è cominciata la felicità. Sì, ma infatti le gambe incrociate sono una forma di difesa, no? che ti mette soltanto ansia in qualche modo. E lei come si difende? Ma niente, io guardi, non mi difendo, nel senso che parlo della mia esperienza, avendo parlato assolutamente niente di sesso con chi mi ha educato, e sono contento di questo, nel senso che poi la mia sessualità è cresciuta nel tempo in un senso spontaneo e più legato alla mia ricerca personale, anche perché non lo vivevo con l'ansia di quella data da quell'educazione che può venire da persone che hanno vissuto questo mondo in maniera molto chiaro. Giovanni, io le auguro che questa crescita della sua sessualità a un certo punto si sia interrotta, sennò avrebbe altrettanti problemi nel futuro. Emanuele Iannini, proprio una battuta in conclusione: sono anni che ormai tratti di queste cose, ma come vedi il campionario alla fine ha delle tipologie molto ben precise. Assolutamente sì, credo che poi alla fine gli umani si muovono in qualche modo in paradigmi sessuali che sono la rappresentazione di un teatro che è sempre identico a se stesso, dove c'è la sofferenza, dove c'è l'attore che sa esprimere gioia, l'attore che sa esprimere intimità. Ecco, l'importante è scegliere la parte giusta in questa pièce teatrale. Beh, chiudiamo il sipario su questo teatro e riprendetevi un po' le notizie sulla peste suina. A domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog. 828 1111.